Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, le notizie principali di oggi: continua a abbassarsi lo spread, ossia la differenza tra quanto costa alla Germania trovare finanziatori per il suo debito e quanto costi invece all'Italia, ed è sceso a un livello ancora più basso degli ultimi, cioè, poi è leggermente risalito oggi, ma insomma siamo arrivati all'agosto del 2011, mentre il rendimento dei BTP a tre anni e dei bot da due anni è sceso ai livelli di ottobre 2010, lo spread oggi è sceso a 284 punti. Era da fine agosto che non si toccava un minimo di questo tipo, e poi è tornato a 290 punti, ma insomma la Banca Centrale Europea ha fatto notare oggi nel suo bollettino che tra i paesi dell'area euro l'Italia ha riportato la maggior riduzione dello spread, il differenziale di rendimento sui titoli di Stato, nonostante il suo debito sia stato declassato dalle tre principali agenzie di rating. E quindi un 166 punti, lo dico a chi continua a polemizzare, ma merito di Monti, no, non è merito di Monti, è anche merito di Monti, non solo, sicuramente un grossissimo merito ce l'ha Mario Draghi con l'operazione da 1.000 miliardi di finanziamento alle banche in due tranche, però 166 punti la riduzione del nostro spread tra novembre e inizio marzo. Che ci sia un miglioramento dell'Italia, oltre che un miglioramento complessivo dei paesi dell'area euro, lo si capisce anche da due cose, cioè che noi siamo tornati a essere percepiti come meno rischiosi della Spagna. Ricorderete che nel periodo peggiore, settembre, ottobre, novembre, erano oltre 50 punti in più che l'Italia doveva pagare, cioè lo 0,5% per trovare finanziatori del debito rispetto alla Spagna, e che altri paesi invece non sono messi così bene. Non è il caso della Grecia oggi, il Fondo Monetario ha dato il via libera al prestito da 28 miliardi, ma del Portogallo. Secondo l'ex membro della Banca Centrale Europea, Lorenzo Bini Smaghi, oggi in un articolo sul Financial Times, servono 180 miliardi per aiutare l'Irlanda e il Portogallo, per evitare un nuovo caso Grecia. Altrimenti il Portogallo non riuscirà a finanziarsi fino al 2016. Servono 100 miliardi al Portogallo e 80 miliardi alla Grecia. L'Irlanda è comunque, scrive Bini Smaghi, sulla giusta strada per uscire dal programma di salvataggio e tornare a finanziarsi da sola, senza aver bisogno degli aiuti del metadone, entro il 2013. Invece il Portogallo è ancora vigilato e aiutato. Perché? Perché oggi lo spread sui titoli portoghesi è arrivato a 1.200 punti, poi è sceso a 1.180. Praticamente un BTP a 10 anni portoghese rende il 14%. Voi capite che è un tasso praticamente da usura, un tasso con cui un paese non riesce a indebitarsi. E la curva dei rendimenti, che è la cosa più preoccupante, torna a essere invertita, ossia rende di più l'obbligazione a breve, quella a 5 anni è rende oltre il 17%, che non quella lunga. Perché è un segnale brutto? Capitò anche all'Italia nel periodo peggiore, perché di solito dovrebbe rendere di più il prestito a lungo termine, siccome l'incertezza maggiore è sui 10 anni che sull'anno. Si dice, se ti presti i soldi a te Portogallo o Italia, voglio un rendimento più alto se me li devi ridare fra 10 anni che non fra un anno. A meno che la situazione non sia così preoccupante che il mercato non va nemmeno a calcolare così tanto cosa succederà al Portogallo fra 10 anni, e dice no, in questo momento è rischiosissimo già prestarti per un anno, perché non sappiamo se sarai fallito o no tra un anno. Fra 10 anni chi lo sa? Ecco perché in questi casi si inverte la curva dei rendimenti, cioè rende di più, o meglio costa di più al Portogallo o al suo tempo l'Italia indebitarsi per una scadenza a un anno che non indebitarsi per una scadenza a 10 anni, come sarebbe corretto. Spero di essere stato chiaro. Partiamo subito con la notizia in breve. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, della baruffa Chiozzotta che sta scoppiando nel governo sulla vicenda dei conti correnti bancari gratis per i pensionati. Un sottosegretario ha detto no, li leveremo, non saranno gratis. Un altro sottosegretario ha detto no, attenzione, per noi siamo d'accordo che siano gratis anche sugli OGM. E insomma, questo crea molta tensione nel giorno in cui chi rappresenta i Confidi fa sapere che da ottobre le banche si sono fermate quanto a finanziamenti. Il sospetto ce l'avevamo anche noi. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, sul petrolio, nuovo record della benzina, io non so più cosa dire. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore che sulla A14 la Shell vende la verde a 1,939 euro. Complimenti. Sì, perché poi in autostrada costa sempre di più. L'oro in rialzo a $1,640, il petrolio è a $105. Dicevo, la Shell si sta beccando, la compagnia anglo-olandese, il record 1,880 euro. Ma appunto ci segnalano anche una cifra ben più alta, 1,939 euro. L'Unione Petrolifera Italiana fa sapere che nel frattempo i consumi sono calati, a febbraio meno 11%, la benzina meno 20%. Strano, con la benzina 2 euro quasi al litro, incredibilmente sono calati i consumi. A parità di giorni la verde ha fatto meno 24%, addirittura il gasolio meno 19%. Non come prezzi, come consumi, magari come prezzi. E sul caro benzina è intervenuto niente proprio di meno che Barack Obama. E infatti i nostri governanti sono un po' silenziosi su sta cosa, Sarà perché lo Stato incassa più di due terzi, quasi due terzi di accise e IVA sulla benzina, ma... Invece Barack Obama è passato al contrattacco e ha detto: è colpa dei repubblicani che vogliono alimentare polemiche elettorali, è un film già visto, stanno cercando di cavalcare l'onda del momento. E ha puntato il dito anche contro le società petrolifere che godono di agevolazioni e sono in parte responsabili dell'aumento dei prezzi. È inaccettabile, è ora di farla finita e di abolire i vecchi sussidi. Che cosa ne pensa De Vita e l'Unione Petrolifera Italiana se anche Barack Obama dice che le compagnie petrolifere sono in parte responsabili dell'aumento dei prezzi? Risponderà alla Casa Bianca di trovarsi la macchinetta per calcolare il prezzo? Ancora, vicino ad Ancona avrebbe superato i 2 euro la benzina, 2,02 euro a San Vincenzo sulla variante Aurelia. Gestore Agipus, anche un po' disonesto, vabbè, insomma, onesto, mica tanto se la metti a 2,02 euro con i prezzi consigliati. Comunque, in America, buone notizie: dai sussidi alla disoccupazione ai minimi da 4 anni, sono calate di 14.000 unità le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Di Irlanda e Portogallo abbiamo già detto, e anche dello spread italiano. E adesso invece vi racconto, insomma, che cosa un po' di confusione c'è in questi giorni nel governo. Vuoi la vicenda Marò in India e ostaggi in Nigeria sul sottosegretario con la delega dei servizi segreti, vuoi le tensioni anche dentro il governo per l'atteggiamento del ministro Fornero, giudicato un po' troppo tranchant, un po' troppo spedito da out, anche perché il ministro dell'economia fa parte di quel tavolo. E adesso addirittura così il battibecco scende a livello dei sottosegretari. Allora, il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo alla Camera ha detto: attenzione, leveremo la norma che prevede che i conti correnti per i pensionati che percepiscono fino a 1.500 euro siano gratis. Apriti cielo, avevamo sempre capito che tu obblighi i pensionati ad aprire un conto corrente, così tutti hanno un conto corrente, c'è maggiore trasparenza, benissimo, però almeno gratis. No, la leveremo, dice Polillo, perché crea un danno, la misura è un danno per le banche. Sì, lo sapevamo anche prima, l'Abile ha detto subito circa 1 miliardo hanno calcolato le banche come danno possibile. A parte qualunque valutazione, uno può dire sì, ho capito, però le banche nel frattempo hanno avuto degli aiuti dalla Banca Centrale Europea che altri settori industriali di questo paese si sognano. Insomma, no? Comunque, a quel punto vorrebbe dire che ai tuoi obblighi pensionato apri un conto corrente, pur a pagarlo fai un favore alla banca. Allora troviamo una soluzione di mezzo, troviamo un conto corrente particolarmente basso come costo, non so. Ma la cosa interessante è che dopo due ore risponde il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti, che smentisce il suo collega all'economia Polillo e dice non è vero, e lo dice durante la commissione finanze e attività produttive della Camera, il governo è d'accordo che i conto correnti siano gratis. Continuiamo così, facciamoci del male. E poi, siccome ne parleremo nella seconda ora, di nuova tensione tra, da un lato, il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che in un'intervista al Corriere della Sera ha detto beh, insomma, bisogna aprire una riflessione seria sugli OGM, quindi sugli organismi geneticamente modificati in agricoltura. L'Europa ha riaperto il dossier OGM, l'Italia assieme a Spagna, Svezia e Ungheria ha aperto la proposta della presidenza danese, e poi però saranno i singoli stati a decidere se vietarli o no. Anche qui passano due ore, il ministro delle politiche agricole Mario Catania dice non condivido l'intervista rilasciata dal ministro Clini sul tema dell'OGM, si tratta di una posizione personale, l'Italia non ha bisogno degli organismi geneticamente modificati. E risponde poi Clini, resta fermo il divieto degli OGM in Italia ma è insensato frenare la ricerca. Insomma, ce n'è a sufficienza per parlare nella seconda ora del programma. Vi do ancora due notizie, una riguarda la borsa è positiva, anche recuperato rispetto a un'ora fa, più 0,60%, Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,80%, l'America più 0,25%, Londra negativa di uno 0,30%, realizzi su Impregilo meno 2,5% e su alcune banche, la Pop Milano perde il 2%, la Pop Emilia Romagna meno 1,80%. Il Banco Popolare meno 0,30, negativa anche Salvatore Ferragamo dell'1,80%, molto bene ST Microelectronics più 5%, Autogrill più 4,20, Intesa San Paolo più 3,70 e quindi fa eccezione tra le banche, TOZ più 2,70, Mediobanca più 1,60, Saipem più 1,40, in positivo adesso anche Unicredit più 1,13% e Azimut più 0,90%. Parleremo anche di Fiat, immatricolazioni auto in rosso in tutta Europa, la media fa meno 9,2%, colpa soprattutto di Francia e Italia che hanno perso il 20% di immatricolazioni, anche la Germania è rimasta ferma, la Spagna è meno 2%, la Fiat fa peggio della media del mercato, meno 16,5%, Fiat meno 18%, Alfa Romeo meno 23%, Lancia Chrysler invece più 3%, cala al 7,2% la quota Fiat come marchi in Europa dal 7,8% di un anno fa, ma in compenso, vi faccio per dire, l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne ha ricevuto per la sola SPA, per la sola Fiat SPA, un compenso fisso di 2.450.000 euro l'anno scorso, ne ha ricevuto 1.344.000 John Elkann e 5.500.000 euro Luca Cordero di Montezemolo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Parliamo della crisi perché insomma sta suscitando una maretta l'intervista dell'ex dipendente di Goldman Sachs, Greg Smith. A dire il vero, noi che ci occupiamo di questo tema, cioè dell'avidità delle banche d'affari americane, dalla crisi in poi, i mega bonus ingiustificati, il rapporto tra dipendente e top manager che è passato da 1,70 degli anni 70 a 1,240 degli anni 2000, a noi non fa molto scalpore. Comunque, Greg Smith scrive e dà questo ritratto di Goldman Sachs: è una banca senza etica, dove i clienti vengono chiamati pupazzi e l'ambiente di lavoro è tossico e distruttivo. E questo l'ha scritto prima di lasciare la carica di dirigente del settore derivati, cioè la carta che ha creato la bolla finanziaria e poi la crisi. Lui era dirigente del settore derivati in Europa, Africa e Medio Oriente. Negli ultimi anni, continua Greg Smith, la società è cambiata molto. Oggi mette da parte costantemente gli interessi del cliente per fare soldi, che è l'unica preoccupazione dei vertici di Goldman Sachs. L'obiettivo non è più guardare al cliente, ma arricchirsi ad ogni costo, anche a spese del cliente stesso. L'avidità di Gecko, qualcuno se la ricorda, eh? L'ex dirigente, che ha lavorato per oltre 12 anni a Goldman Sachs, ha rivelato anche di aver visto spesso i dirigenti, appunto, chiamare pupazzi i clienti nelle mail interne, puppets in inglese. Goldman Sachs ha preso le distanze, non siamo d'accordo, non rispecchio il modo in cui operiamo. Il nostro obiettivo è raggiungere il successo insieme ai clienti. Gordon. Qualcuno mi ha ricordato, qualche sera fa, che una volta ho detto l'avidità è giusta. A quanto pare è diventata legge. Perché, vedete, è l'avidità che spinge il mio amico barista a comprare tre case che non può permettersi senza dare l'anticipo. Ed è l'avidità che spinge i vostri genitori a chiedere un mutuo di $250,000 sulla casa che ne vale 200. E con quei 50 correre al centro commerciale a comprare la TV al plasma, l'ultimo cellulare, il computer, e già che ci sono anche un SUV. E perché non anche una seconda casa? In effetti conviene. Insomma, lo sappiamo tutti che il prezzo delle case in America sale sempre, giusto? Ed è l'avidità che ha spinto il nostro governo a ridurre il tasso di interesse all'1% dopo l'11 settembre perché tornassimo tutti a fare shopping. E hanno inventato tante belle siglette per mascherare il grande debito. CMO, CDO, SIV, ABS. Scommetto che ci sono al massimo 75 persone in tutto il mondo che sanno che cosa sono. Beh, adesso ve lo dico io. Sono solo delle ADM. Armi di distruzione di massa. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Allora, Gordon Gecko, che poi diceva, insomma, ma come? I grandi banchieri hanno visto che i gestori di hedge fund guadagnavano milioni e hanno detto, noi no? Nel frattempo, a un mese dalla bocciatura della candidatura olimpica di Roma, il Consiglio regionale romano, del Comune di Roma, scusate, il Consiglio regionale della Regione Lazio, non ha ancora cancellato la Commissione Giochi Olimpici 2020 e Grandi Eventi, che non si riunisce da 5 mesi, ma costa ai contribuenti 250.000 euro l'anno tra indennità, auto blu, segretari, portaborse e uffici. Pensate che nel 2011, in un anno, ha prodotto solo 3 sedute. Andate sul sito della Commissione Giochi Olimpici 2020 e Grandi Eventi e scoprirete che proposte di legge, 0 documenti, deliberazione, 0 documenti, schemi di decreto, 0 documenti, schemi di delibere, 0 documenti. Il Consiglio regionale aveva promesso la rapida cancellazione. Polverini, mi sembra che il caso sia suo. Con la soppressione della commissione si risparmierebbero, da qua allo scadere della legislatura, 750.000 euro che magari servono per altre cose. Polverini. E poi c'è questa cosa bellissima, c'è il Museo di Arte Contemporanea Riso a Palermo, non ha un solo quadro. Io capisco, insomma, certi Pollock, certi Fontana, ma no, qui proprio il quadro non c'è. 22 custodi della regione siciliana che da un mese vegliano su 2000 metri quadri di nulla, non lo so, guarderanno fissi gli orizzonti. E questo è il frutto della lite tra Gianfranco Micichè, ex sottosegretario, grande fautore del riso, e invece del presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo. Il museo resta vuoto, le mostre programmate finanziate con 6 milioni di fondi europei sono bloccate dagli uffici di Lombardo per irregolarità amministrative. Nessuno si vuole prendere la responsabilità di decretare chiuso un museo e mandare a casa i 22 custodi. Complimenti alla Regione Sicilia, che non ci fa mai mancare elementi per il nostro appuntamento. Ma cos'è questa crisi? E visto che parlavamo di Goldman Sachs, delle banche, parliamo delle banche italiane e delle non erogazioni alle imprese. 349-238-6666 per i vostri sms. sì, avete ragione nel dire che Alemanno ha detto, ma lì è il sindaco di Roma che a novembre non riuscirà a pagare gli stipendi, poi voleva fare le Olimpiadi. No, ma qui il problema è il consiglio regionale della regione Lazio, sta cavolo di commissione giochi olimpici 2020 che non li faranno più, secondo noi meglio. Però la volete chiudere o no? Cioè, 250.000 euro l'anno costa. Noi aspettiamo qualunque risposta dal presidente, dal governatore della Regione Lazio Polverini, come in altri casi. Nel frattempo parliamo delle banche e dei prestiti o non prestiti alle imprese. Perché ieri abbiamo applaudito, insomma, all'iniziativa di Unicredito, 40 miliardi da qua al 2015 per le imprese, 35 miliardi per i privati. Oggi, insomma, ci ha lasciato basiti il rapporto di Fedart Fidi sui confidi. Cioè, Fedart Fidi riunisce 133 confidi per i piccoli artigiani, Confartigianato, cooperative artigiane di garanzia, CNA. Sono quasi 640.000 imprese aderenti, tra cui Unioncamere. E poi dentro ci sono Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Popolare Emilia Romagna, Federazione Italiana Credito Cooperativo. Dottor Leonardo Nafissi, direttore di Fedart Fidi e curatore del rapporto di oggi, buonasera. Buonasera. La sento molto basso, è già depresso? No. Tutt'altro. Allora, no, sto ridendo perché un ascoltatore ha detto, Barisoni, lei non capisce che essendo arte contemporanea, i 22 custodi del museo di Palermo sono loro le opere e si guardano l'un l'altro. Sì, da Catalan in poi abbiamo visto di tutto, obiettivamente, un Tani, ma insomma una cosa del genere, cioè i 22 custodi sarebbero le opere d'arte stesse. Beh, più Madame Tussauds che un museo d'arte contemporanea. Comunque, mi dica un po', nel rapporto di oggi cosa avete scoperto sulla stretta del credito ai vostri associati, che se ho ben capito sono tutti artigiani? Sì, la gran parte sono imprese artigiane, ma ci sono anche delle piccole imprese. La base associativa è di circa 700.000 imprese complessivamente intese, in gran parte appunto artigiane in circa il 90%, e l'altro 10% abbondante fatto di piccole imprese. Ma diciamo, questo rapporto che abbiamo presentato oggi come 15ª edizione, per cui abbiamo anche una serie storica abbastanza importante, evidenzia da un lato il grande sforzo che stanno producendo i confidi per veramente svolgere questa funzione di ammortizzatori sociali della crisi nei confronti delle piccole imprese, perché come sapete sono quelli che consentono attraverso le proprie garanzie di favorire l'accesso al credito, certo, no, di queste piccole imprese e di ottenere finanziamenti magari anche a medio e lungo termine senza dover produrre garanzie reali, ipoteche piuttosto che altro. La cosa che abbiamo rilevato, ma che era abbastanza nota e che risulta anche da dati ufficiali, che nei confronti della piccola impresa, in particolare delle imprese artigiane, c'è stato un complessivo calo che viene stimato da circa 57 miliardi, che è il totale dei finanziamenti concessi dal sistema bancario alle imprese artigiane, intorno ai 55 miliardi. Ma la cosa preoccupante non è soltanto... Cioè 2 miliardi in meno. Circa 2 miliardi in meno. Mm. Che sono a spanne il 4%, sì. Sì, la cosa diciamo più preoccupante è che questo calo si è praticamente realizzato tutto nell'ultimo quadrimestre, cioè negli ultimi 3 mesi dell'anno. La cosa che abbiamo oggi voluto insomma far presente è che a fronte di tante pratiche deliberate come garanzia dal Confidi e devo dire in alcuni casi anche dalle stesse banche, poi queste pratiche deliberate non hanno prodotto un'effettiva erogazione a favore delle imprese da parte. Cioè c'era via libera dei Confidi che accompagnavano l'artigiano, la banca d'accordo, poi però non si è sbloccato il credito, capito bene? Alla fine non si è sbloccato il credito, di fatto non c'è stata l'erogazione. Sappiamo che il sistema bancario ha vissuto nei mesi di novembre e dicembre una crisi particolare di liquidità e non solo, è chiaro che però questo crea ulteriori difficoltà certo, al mondo delle imprese. Io dopo il metodo della pubblicità vorrei sapere da lei però se, visto che lo spread è calato e quindi le banche costa meno denaro, che Mario Draghi ha offerto 250 miliardi alle banche italiane in due tranche sostanzialmente, e che insomma tutto un insieme di miglioramento c'è stato, se lentamente le banche, speriamo non troppo lentamente, da gennaio-febbraio in poi sono tornate a prestare. Scrive un bancario che la banca dove lui lavora eroga al 9%, però compegni almeno al 70% dell'erogato. Non male, al 9%, l'overnight quanto è? È bassissimo, il tasso a cui gliel'ha prestati Draghi è all'1%, però 8% di differenza, non è male come guadagno per erogare un prestito. Meteo, pubblicità e poi speriamo di sapere da lei che le cose sono migliorate, visto che insomma, i 2 miliardi di calo si sono avuti quasi tutti, come ricordava lei, negli ultimi 3 mesi dell'anno. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. No, rispondo a alcuni ascoltatori al 349-238-6666. Non ho paragonato l'overnight con il tasso a cui Mario Draghi ha prestato i soldi alle banche europee, tra cui quelle italiane. Ho solo detto che da un lato hanno ottenuto 1.000 miliardi le banche europee, 250 quelle italiane, a un tasso molto agevolato, all'1% per 3 anni, potendo dare in garanzia come collaterale qualunque cosa. Dall'altro depositano, perché abbiamo visto il record di 2 settimane fa, depositano i soldi la sera e li riprendono la mattina alla BCE con il tasso overnight, che abbiamo battezzato overnightmare per gli imprenditori e gli artigiani. Insomma, no, quello che manca qui è il credito alle imprese, al di là delle intenzioni. Allora, vedo che molti bancari scrivono e confermano finanziamenti al 9% e prestito ecologico al 10%, oltre al 9% le spese di gestione a un altro 0,5%, se è un fondo della banca a un altro 1%, insomma 9%, scrive giustamente un ascoltatore, il 9% è quasi da usura, con il 70% di copertura siamo tutti bravi a fare i banchieri. Allora, lei ci conferma che le cose stanno migliorando invece, Nafissi? Sì, diciamo che all'inizio dell'anno immaginavamo che tutta questa mole di operazioni non erogate al 31 dicembre si potessero subito sbloccare, perché avevamo immaginato che ci fosse un problema di ratio patrimoniali delle banche che volevano... Sì, che avevano un problema anche loro, dovevano ricomprarsi l'obbligazione in scadenza, insomma c'erano vari... soprattutto dovevano insomma far verificare quelli che sono i propri ratios al 31 dicembre, no? Però immaginavamo che appunto subito dal 2 gennaio potesse ripartire, così non è stato, in questo momento sta ripartendo il tutto, devo dire con grande lentezza e con grandi difficoltà, per cui queste iniezioni di liquidità delle quali anche lei parlava da parte della BCE speriamo che comincino ad arrivare al sistema produttivo, perché oggettivamente la prima tranche è andata fondamentalmente per altre strade. E di conseguenza da questo punto di vista, come lei diceva, già l'impegno di ieri di Unicredit, che ha messo a disposizione risorse importanti, soprattutto anche valorizzando l'attività dei Confidi anche con delle proposte molto concrete, noi l'abbiamo colte con grande favore e chiaramente adesso ci incontreremo per poi mettere in pratica concretamente questi che sono impegni che sono stati presi, devo dire, in maniera molto consistente. Allora, possiamo un po' differenziare, prego. Mi scusi, concludo, perché anche da banca a banca ci sono oggettivamente comportamenti molto diversi, ogni banca ha problematiche diverse, chi di liquidità, chi di patrimonio, chi altro, per cui poi diventa un po' difficile generalizzare, però oggettivamente insomma il calo che c'è stato nell'ultimo trimestre è un dato oggettivo e non... Tra l'altro vedo molti messaggi, dunque 9,5% il tasso praticato per un prestito per il fotovoltaico, e poi scrive un ascoltatore, Fabio da Verona: la banca mi ha concesso un finanziamento di 17.000 euro per 5 anni al tasso di interesse del 9,60%. Devo dire che su questo i tassi praticati dalle banche in convenzioni con i Confidi sono nettamente inferiori. Nel quanto? Senso che, quando l'artigiano, nel caso vostro, va in convenzione con il Confido, quanto riesce a ottenere dalla banca? Tassi molto più bassi, no? 5-6%, sì, tanto per 5-6%. Dare un'ordine di grandezza, in alcuni casi qualche volta anche meno, dipende poi dal tipo di operazione, però la differenza tra un credito garantito da un Confidi e un credito libero è molto molto rilevante e soprattutto si sta amplificando in questa fase. Allora, nel concludere, visto che un artigiano su 3, voi ne avete appunto 600, quanti sono gli associati? Quasi 700.000. Gran parte artigiani. Sì. Uno su 3 si rivolge ai Confidi. L'Italia si dice spesso che è lunga. Ecco, quale regione è più attiva e quale invece meno attiva? Beh, diciamo, abbiamo alcune regioni dove il sistema di garanzia è molto molto forte, per esempio in Veneto, in Lombardia, in Toscana, in Emilia, che sono anche poi le regioni dove il sistema è più sviluppato. Dobbiamo dire che purtroppo il sistema dei confidi, soprattutto al sud, con qualche eccezione, guarda caso nelle due isole dove abbiamo anche strutture molto forti, in Sicilia e Sardegna, però devo dire che complessivamente il sud è quello che ha, anche dal punto di vista dei confidi, maggiore difficoltà, per cui abbiamo confidi molto forti nelle regioni forti e abbiamo confidi un po' più deboli nelle regioni più in difficoltà, ancorché quel differenziale di tasso che prima citavo per le regioni del centro-nord è ancora più elevato al sud, nel senso che i tassi di interesse sul libero mercato al sud sono veramente elevati, anche a due cifre. Devo dire che quelli praticati dai confidi sono oggettivamente molto più bassi e in media con quello che è la media nazionale dei finanziamenti garantiti dai confidi. Grazie, grazie. Speriamo che i segnali che lei avverte si consolidino. Grazie al direttore di FedArt Fidi, e quindi l'associazione che riunisce 133 confidi del mondo artigiano principalmente, Leonardo Nafissi. Grazie, buona serata. Ho visto che ne parleremo anche dopo, io vorrei che il governo battesse un colpo. Batti un colpo, governo, perché sulla benzina non c'è una notizia. Va bene tutto, ma insomma, siccome il 70% sono accise e IVA, adesso scrive un ascoltatore che a Porto Sant'Elpidio, dovrebbe essere nelle Marche se non ricordo male, mezz'ora fa la verde era 1,975 euro, adesso è già 1,989 euro la Shell. Non è che puoi cambiare i prezzi, oddio. Avanti così, cioè beccarsi la stagnazione e recessione economica con l'inflazione dovuta alla benzina è il peggiore dei mondi possibili. Ma quindi battesse un colpo al governo, o batta, che batta un colpo al governo su questo, ma che lo batta anche sul tema bancario, perché insomma da qualche parte un po' di moral suasion andrà fatta sulle banche, visto quello che ci scrivono molti ascoltatori, e visto che di certo per ora c'è l'innalzamento dell'età pensionabile che andava fatta perché l'Italia era con lo spread a 540, per carità, ma anche l'effetto dell'IMU, ce ne siamo occupati lunedì. Oggi c'è uno studio della Confesercenti che calcola che un piccolo imprenditore, cioè 50.000 euro di fatturato, cioè piccolo proprio, con un locale da 100 metri quadri, pagherà a seconda di dove ha il locale tra i 3.500 e i 5.000 euro in più all'anno come ricadute fiscali complessive, e cioè IMU da 700 a 1.600 euro, nuova tassa sui rifiuti 30 euro, mancato trasferimento sui prezzi di metà dell'aumento dell'IVA 850 euro, e poi costi amministrativi conseguenti all'uscita dal regime dei minimi che riguarda 500.000 imprese 1.500 euro. Aumento dei contributi sociali 450 euro e la Confesercenti calcola un carico complessivo tra i 3.500 e i 5.000 euro. Ora, tutto questo l'abbiamo detto mille volte, era necessario, la lotta all'evasione va fatta, la difenderemo fino alla morte, però il governo deve dare una risposta sul fronte bancario, lì la moral suasion è importantissima, magari contratta le commissioni che tanto hanno fatto infuriare le banche, oppure questo con iniziative diverse, la moratoria va bene ma non c'è solo quella, e poi sulla benzina, ma non si riesce a mettere in campo una politica anticiclica su questo, visto che sta incassando più del dovuto lo Stato, oppure se sta incassando più del dovuto utilizzasse questi soldi per fare la riforma degli ammortizzatori sociali, cioè da qualche parte facci sapere dove sono andati i monti, questi soldi della benzina, traffico e poi la borsa. Allora, no, Monti in realtà ha battuto un colpo poco fa, perché è intervenuto il Presidente del Consiglio e davanti alle commissioni della Camera ha detto: attenzione, sono pericolosi e prematuri gli impulsi a un rilassamento, ogni arretramento può dare cadute gravi del sistema. Siamo d'accordo, cioè lo spread sta calando, il debito italiano è più vendibile e collocabile sui mercati, ma non è che ci si mette un attimo, ricorderete fino a maggio tutto bene, poi da giugno a settembre siamo precipitati. D'accordo anche sul fatto che il primo ministro dica al presidente del Consiglio che siamo addirittura d'arrivo sul lavoro e che le liberalizzazioni danno più crescita ed equità. Ha anche aggiunto che adesso si deve rilanciare la crescita dopo lo scrutinio positivo dei mercati e delle organizzazioni internazionali. E le liberalizzazioni servono anche a promuovere il merito. Ha negato che il governo sia debole con i forti e forte con i deboli. Non mi sembra nel caso di Snam, ha detto Monti. Io vorrei ascoltare però una parola di Mario Monti sulle banche e sulla benzina. Scusatemi se sono così prosaico, ma questi sono i temi che noi affrontiamo e i temi che interessano ai nostri ascoltatori. Per ora intanto però le banche, le borse, che a casa nostra vuol dire soprattutto le banche, visto che sono quelle che muovono l'indice più di altri settori, più 0,85% Milano, più 0,44 Parigi, più 0,90 Francoforte, invariata Londra, più 0,30 l'America, euro a quota 1,30,82. Molto bene Steamark Electronics e Autogrill, più 5% e più 4,35 rispettivamente. E allora Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Andiamo rapidi. Steamark Electronics, Autogrill e anche Intesa San Paolo che ha fatto un più 4. Parto da Intesa. I conti oggi, giusto? Intesa ha festeggiato i conti, che in verità si sono chiusi con una perdita superiore a 8 miliardi. Esatto. E perché è salita? Sentendo i trader hanno dato queste motivazioni. È stata fatta una pulizia di bilancio a livello organico, a livello di business. I conti però sono apprezzabili e nonostante la pulizia di bilancio fatta con tutta una serie di svalutazioni, la banca comunque paga la cedola. Quindi forse c'era chi aveva messo in conto conti peggiori e questo ha appunto infiammato il titolo, che ha chiuso in progresso del 4% e soprattutto le risparmio hanno chiuso con un progresso di oltre il 9%, perché Cucchiani ha fatto la battuta che ci piacciono poco le risparmio, e quindi questo ha dato in là tutta una serie di indiscrezioni su eventuali conversioni, anche se poi sempre Cucchiani in conference call, vedendo il titolo che saliva, ha precisato che probabilmente non faranno niente. Detto questo, però tutti gli obiettivi del piano sono da rivedere, ha detto Cucchiani. Esatto. Cioè, io non ho capito perché festeggia la borsa un piano in cui il dividendo va a 5 centesimi, la perdita è di 8 miliardi e 200 milioni, gli obiettivi del piano sono da rivedere e la borsa festeggia? La borsa, appunto, secondo quello che dicono i trader, festeggia perché aveva messo in conto svalutazioni più anche consistenti peggiori. Certo. E comunque osservando l'andamento del business della banca non è andato così male, anzi alcuni l'hanno giudicato positivamente. Trattamento diverso invece per la Popolare Emilia Romagna, mi sembra di aver visto che perde l'1,60%. Eh sì, è da ieri che perde punti, perché ieri è stato presentato il piano fino al 2014 che non ha convinto il mercato. I target al 2014 sono considerati troppo conservativi, così dicono gli analisti, e quindi appunto si è preferito prendere le distanze dal titolo, che anche oggi ha perso oltre l'1%. Sul tema delle banche, anche la Pop Milano ha perso l'1,60%, ma visto che stanno uscendo in questi giorni tutti i bilanci, un altro bilancio importantissimo è quello di Eni, 2011, con l'utile netto che è salito a 6 miliardi 860 milioni contro i 6 miliardi 320 milioni, dati confermati dal gruppo al termine del Consiglio di Amministrazione, dividendo di 1,04 euro per azione, di cui 52 centesimi già distribuiti a settembre 2011. Beh, quindi vuol dire che le compagnie petrolifere, brave, ma guadagnano. Non lo dico perché il tema della benzina è un tema dominante in questi giorni, evidentemente da 6 miliardi e 300 milioni a 6 miliardi e 860 milioni. Il titolo? Il titolo ha guadagnato lo 0,44%, accelerato ma insieme alla borsa sul finale. I conti erano in linea con le aspettative, con quelle che erano le indicazioni che erano già emerse nelle scorse settimane, quindi nessun brivido, diciamo. Mm-hmm. Dopo il GR andiamo avanti con gli altri titoli. Anche in pregiro, su cui ci sono stati parecchi realizzi, in pregiro meno 2,50%, segnalano gli ascoltatori prezzi della benzina folli in molti casi in Italia sopra i 2 euro, ma soprattutto all'Auchan e in molti centri commerciali dove la benzina si paga meno, code da tutto il pomeriggio. Ecco, speriamo che vi siano anche altri casi, così si fa un po' di sana concorrenza ai benzinai ma anche alle compagnie petrolifere. 349-238-6666 per i vostri sms, ci sentiamo dopo il GR. 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo con la collega di Radio Corriere sulle 24 ore, Eleonora Micheli. L'approfondimento, dicevamo, a Estimark Electronics più 5% e Autogrill più 4,30. Sì, Autogrill più 4,30 perché c'è il rumor che la controllata di Autogrill, Aldeasa, si è interessata a rilevare ADR Retail, che sarebbe la società che controlla tutte le attività commerciali negli aeroporti di Ciampino e di Fiumicino. Mm-hmm. Quindi un rafforzamento nel settore aeroportuale, che peraltro è quello che va meglio di Autogrill. Pesa per un 30%, se non ricordo male, sul fatturato complessivo. Prego. E poi per quanto riguarda ST, innanzitutto oggi va bene tutto il settore tecnologico, sì. È quello che va meglio in Europa. Wall Street e le Apple hanno toccato oltre i $600 per azione. Ma detto questo, a infiammare le azioni di ST è sempre in questo caso una voce che ritrae l'azienda che abbia lo studio, la cessione della joint venture ST Ericsson. La joint venture che aveva problemi e che, per la quale appunto i vertici di ST stanno preparando il rilancio. Pare che siano interessati alla società gruppi del calibro di Texas Instrument, Intel e AMD. E quindi su queste voci appunto il titolo ha segnato questa ottima performance, che si va ad aggiungere peraltro ai rialzi delle ultime settimane che hanno portato le ST sopra la soglia dei 6 euro. Ancora, ultimo titolo che vorrei citare è Impregilo, perché lì la battaglia tra Salini e Gavio va avanti. L'assemblea, se non ricordo male, è il 3 maggio, il titolo meno 2,50. Sì, oggi il titolo è andato giù, ci si interroga cosa succederà da qui al 3 maggio. Ricordiamo che Salini ha più o meno il 22%, Gavio il 29%, a questo punto Salini potrebbe salire fino al 29% e battersi in assemblea, o chissà addirittura lanciare un takeover, un OPA. È tutto da vedere. Intanto oggi appunto i titoli hanno preso una pausa di riflessione, evidentemente. Pausa anche per te, fino a domani. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Migliori e peggiori: CHL più 13,12, Neurosoft più 12,1, Sintesi più 10,86. E le Intesa San Paolo sulle risparmio più 9,11. Peggiori: investimenti e sviluppo meno 19,9, Grandi Viaggi meno 6,20, ERG meno 5,20, Movimax meno 6,44%. Noi torniamo invece sul tema del governo, ma non solo, perché sul fronte benzina stanno uscendo le agenzie parecchio interessanti. C'è un ascoltatore che scrive: ma lei, Barisoni, negli anni passati, quando la benzina aumentava, che faceva? Si rigirava i pollici? No, a parte il fatto che non ho ancora un potere né di moral suasion né di far abbassare accise e IVA, però abbiamo fatto qualche decina di puntate cercando di dimostrare che con i prezzi del petrolio, il rapporto euro-dollaro, erano incrementi ingiustificati. Non so lei dove fosse, ma noi queste puntate le abbiamo fatte senza un grande successo, evidentemente, soprattutto con l'Unione Petrolifera Italiana, con De Vita, ma il tentativo ce l'abbiamo fatto e ce l'abbiamo messa tutta. Le agenzie di poco fa riguardano la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dopo le parole molto dure di Barack Obama, che ha accusato anche le compagnie petrolifere di trarre profitto da questi aumenti. Stati Uniti e Gran Bretagna sono pronte con un'azione bilaterale a immettere le proprie scorte sul mercato petrolifero per cercare di far calare i prezzi. Washington e Londra. Nel giorno in cui scopriamo che sono crollati i consumi di carburanti nei primi due mesi dell'anno, meno 10%, ma il governo ha fatto il pieno di imposte, più 20%, per grazie alla spesa che è aumentata dell'11%, ha toccato i 10 miliardi nei primi due mesi dell'anno la spesa per benzina e gasolio, più 11%, e un carico di imposte di 5 miliardi e mezzo, più 20%, quindi sostanzialmente il governo nei primi due mesi ha incassato 1,5 miliardi in più grazie all'aumento del prezzo della benzina, 1 miliardo più di quello che non si attendesse, perché ha incassato il 20% di 5,5 miliardi, avrebbe dovuto incassare 4 miliardi e qualcosa, ne ha incassati 5,5. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, io prima, in maniera provocatoria ma neanche tanto, ho detto che il governo dovrebbe battere un colpo sui temi che insomma stanno appassionando, per modo di dire, gli italiani. Mi riferisco alla benzina da un lato, al costo dei conti correnti sulle banche, al credito verso le imprese, gli artigiani e le piccole imprese. Allora, ha la sensazione che oggi, tra il botta e risposta dei due sottosegretari, no? De Vincenti e Polillo, che il primo ha detto, Gianfranco Polillo, sottosegretario dell'economia, ha detto: beh, stiamo valutando, leveremo il fatto che i conti correnti gratis per i pensionati fino a 1.500 euro al mese, il governo è obbligato infatti ad avere un conto corrente, è una misura che danneggia le banche. De Vincenti ha risposto: no, il governo è d'accordo, e ha smentito Polillo. Battibecco anche tra il ministro Clini e il ministro Catania, e veniamo da una settimana di polemiche col ministro Terzi, l'assenza di un sottosegretario, e polemiche anche sull'atteggiamento del ministro Fornero, giudicata troppo precipitoso e poco coinvolgente, diciamo, il ministero dell'economia. Che cos'è che non dico si sta ingrippando, ma un po' di frizione ci sono? Beh, c'è un po' di confusione effettivamente. C'è da dire che questo è un governo di professori, e forse da questo punto di vista gli manca ancora dell'esperienza, soprattutto sotto il profilo di come si conducono i lavori parlamentari per quanto riguarda il governo, quindi c'è un po' di scollamento evidentemente con il Parlamento su questo. Come seconda cosa però vorrei dire che il governo Monti è impegnato su dei fronti, su molteplici fronti, tutti piuttosto importanti, come sappiamo, a cominciare dalla riforma del lavoro e dai provvedimenti che riguardano le liberalizzazioni e le banche. Mm. E in particolare sulle banche mi sembra che si afferma l'intenzione del Presidente del Consiglio Monti di non intervenire con una decisione del governo, ma di attendere quelle che sono invece le proposte del Parlamento, anche perché noi sappiamo che questo governo è stato dipinto spesso come il governo dei poteri forti, il governo della finanza e delle banche, e quindi Monti non si vuole cucire, secondo me, addosso questa etichetta con un intervento del governo, e attende che il Parlamento faccio le sue proposte e che sia il Parlamento a decidere. Sì, in merito anche alle commissioni. Esatto. Che hanno le varie commissioni sugli affidi, che hanno portato alle dimissioni in blocco della presidenza dell'ABI, delle banche italiane. Guido, sul tema della benzina non c'è il rischio di una sottovalutazione? Cioè, sappiamo che qui c'è il sospetto è che lo Stato, o meglio il governo, abbia un grosso vantaggio, 1 miliardo in più guadagnato in 2 mesi, la dice lunga, no? Quanto Il tema delle benzina è un no, tema... perché il tema della benzina, al di là di fare arrabbiare gli ascoltatori automobilisti, crea anche un'inflazione che abbiamo visto nel dato di 3 giorni fa importata, che è assurda, perché il paese è fermo, è in recessione, i consumi sono in depressione, voglio dire, è un'inflazione che arriva solo dalla benzina e dal gasolio. Esattamente, il tema della benzina è centrale se vogliamo affrontare con serietà il problema della crescita. Con una benzina che costa 2 euro al litro, non si va da nessuna parte, con le prospettive addirittura di nuovi aumenti e di una situazione anche di tensione sul mercato dei prezzi petroliferi. Vorrei aggiungere che da ottobre poi è previsto andare in cantiere, in vigore, l'aumento dell'IVA al 23%, ecco, giusto? Questo significa che ovviamente significa un altro colpo su una filiera del prezzo della benzina, che è quella che noi abbiamo purtroppo imparato a conoscere. E quindi credo che il governo su questo punto dovrebbe commettere un'azione molto maggiore di quella che è stata messa fino a questo momento. Vedremo domani quali richieste arriveranno anche dalla Confindustria, dal mondo delle imprese. Domani c'era 2 giorni del Centro Studi di Confindustria a Milano. Arriverà anche Mario Monti sabato, il ministro Passera domani, vari esponenti, leader politici dei partiti che sostengono il governo, centinaia di imprenditori. Noi saremo in diretta domani dalla vecchia fiera di Milano, non quella di Ropero ma Milano City, e le richieste che arriveranno dal mondo delle imprese, soprattutto mi sembra di capire sulla fase 2, la fase della crescita. Tra l'altro domani il Sole 24 Ore si occupa proprio di informazioni pratiche da questo punto di vista: i mutui per la casa, i test di convenienza sui nuovi prestiti e la guida ai nuovi lavori, 8 contratti per i giovani, nonché la compensazione dei crediti fiscali. Grazie a Guido Gentili. Traffico, e poi parliamo di una vicenda su cui poco fa è intervenuto anche il ministro Passera, una vicenda che ha fatto infuriare gli agricoltori italiani, ossia la Siemens avrebbe aiutato un'impresa in Romania che produceva formaggio con l'Italian sounding, che sembrava italiano, quindi faceva concorrenza ai nostri produttori, Quindi ci saremmo fatti male da soli con un'operazione di tafazzismo non da poco. Ne parliamo dopo il traffico. E allora parliamo di aziende italiane, di quelle del settore agroalimentare che da sempre, e pesa ancora di più adesso, devono affrontare la concorrenza della contraffazione in senso stretto, ma anche contraffazione in senso più subdolo. Parliamo di contraffazione alimentare perché spesso abbiamo ricordato come il cosiddetto Italian Sounding, ossia tutti quei prodotti non falsificati in senso stretto, non è un marchio falsificato, ma prodotti che sembrano italiani, no? Valgono 54 miliardi di euro. C'è il vino del Chianti prodotto nella Napa Valley, il pesto spicy che viene dalla Thailandia, l'olio Pompeian prodotto in America, il Parma Salami che è fatto in Messico, la mortadella siciliana dal Brasile, il provolone del Wisconsin. Ecco, questa roba che non è contraffatta, cioè la contraffazione vale 6 miliardi, che già è tantissimo come danno, ma questa roba che è l'Italian Sounding ha un effetto negativo, perché poi uno pensa di comprare un prodotto italiano, in realtà viene fatto appunto in Canada piuttosto che in America, in Thailandia o quant'altro, e vale da sola 54 miliardi di euro. Pensate che l'intero export di tutta l'industria agroalimentare italiana, quindi vino, pasta, tutto assieme vale 23 miliardi su 127 di fatturato, e vuol dire 400 mila addetti in questo paese, distribuiti in oltre 6.300 imprese. Quindi il valore dell'Italian Sounding, di quello che sembra italiano, nel settore agroalimentare è doppio, più che doppio, rispetto a quanto noi riusciamo a esportare ogni anno. 54 miliardi di Italian Sounding, di sembrare italiano, rispetto a 23 miliardi di vera esportazione di vero Made in Italy. Oggi c'è un'iniziativa, per questo ne parliamo, della Coldiretti, perché ha annunciato l'alleanza per il Made in Italy. Consumatori, ambientalisti, cittadini hanno manifestato oggi a Roma davanti a Montecitorio portando esempi di caciotto e pecorino prodotto in Romania, e qui arriviamo alla nota dolente. Tra l'altro sono già 2.200 i comuni che hanno adottato delibere a sostegno del Made in Italy e che hanno chiesto di vietare il finanziamento pubblico italiano di prodotti taroccati, o meglio Italian Sounding, fatti all'estero, come il caso del falso pecorino. Perché parliamo del caso del falso pecorino, della caciotta prodotto in Romania? Perché secondo l'accusa della Coldiretti sono prodotti in Romania da Lactitalia SRL, latte rumeno, ma sono commercializzati, oltre che prodotti in Romania, con nomi e immagini che evocano l'italianità. La cosa che ha fatto arrabbiare la Coldiretti è che Lactitalia è una società partecipata dallo Stato italiano attraverso la Siemens, che è la società per azioni controllata dal Ministro dello Sviluppo Economico. Il 76% infatti è l'azionista di maggioranza, è il Ministero dello Sviluppo Economico, che è una finanziaria pubblico-privata che dovrebbe aiutare a sviluppare le imprese italiane all'estero. E l'accusa è molto pesante, dice: insomma, qui la Siemens sta favorendo la concorrenza scorretta, addirittura partecipando a questa Lactitalia SRL in Romania, per cui ci fanno concorrenza sul pecorino e sulla caciotta, che sembrano italiani, e addirittura noi siamo così masochisti che partecipiamo pure a questa società. Nel giorno questo in cui l'Unione Europea ha riconosciuto la cinta senese, il lardo senese, come uno dei 1.000 prodotti dell'Unione Europea a denominazione di origine protetta, della DOP, noi vorremmo sapere se veramente c'è questo tafazzismo, questo atteggiamento masochista, e lo chiediamo all'amministratore delegato della Siemens, dottor Massimo D'Aiuto. Buonasera. Buonasera. Allora, noi sappiamo che l'Italian Sounding già ci fa dei danni enormi, come ricordavo. La Coldiretti vi accusa di avere finanziato una società, appunto di essere in partecipazione con una società che va a fare concorrenza sleale, scorretta, dalla Romania su addirittura il pecorino e la caciotta. Cioè, nulla di strano se producessero un formaggio rumeno, chiedo scusa per l'ignoranza, ma non ne conosco. Ma insomma, non è un po' un modo di farsi male da soli? Noi condividiamo applichiamo tutti i principi che dice Coldiretti, perché tra l'altro noi lavoriamo per il Made in Italy dal 91. Per la Critalia la vicenda è un po' più complessa e anche più meno recente, risale al 2010, quando questa azienda, che è stata promossa dai fratelli Pinna, che tra l'altro producono pecorino DOC, e sono un'azienda sarda che si mantiene sul mercato in Italia, sviluppa in Italia, quindi non è stata una delocalizzazione, è stato proprio un rafforzamento di questa azienda, ha prodotto dei formaggi diretti a tutt'altro mercato, con indicazioni di dove era prodotto, però Coldiretti ebbe delle notazioni a riguardo, noi, essendo poi comunque un socio finanziario di minoranza e anche quindi non avendo un impegno gestionale, ma avendo comunque l'interesse a tutelare i prodotti italiani e Made in Italy, abbiamo chiesto e ottenuto che le autorità competenti facessero tutte le verifiche, quindi sono state fatte a suo tempo tutte le verifiche dai ministeri competenti, dall'anticontraffazione, dalla tutela del DOP, che hanno dato esito positivo, cioè nel senso che non c'era nessuna infrazione. Poi Coldiretti ha insistito comunque sul nome, proprio Lactitalia, quindi sull'evocazione di un'italianità che poteva trarre in inganno, e diciamo su questo anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente, la settimana scorsa, data una direttiva molto chiara su cercare, direttiva anche a noi, per far sì che si facesse maggiore attenzione e maggiore vigilanza su tutto ciò. Noi però su Lactitalia, visto che c'è anche un procedimento in corso di carattere legale da parte ovviamente dei fratelli Pinna, non noi, siamo un'istituzione, ci guarderemo bene da fare delle azioni con un'associazione che comunque, anche se può in qualche caso avere dei toni accesi, parte da presupposti che noi condividiamo. Ecco, in questo caso, ancor prima di questa direttiva, noi, proprio per rasserenare il clima e procedere costruttivamente insieme anche alla Coldiretti, come lavoriamo con tutte le associazioni, con Federalimentare, sì, con l'Assica, abbiamo ceduto questa partecipazione, abbiamo avviato la cessione, che si è completata proprio nei giorni scorsi. Cioè, mi faccia capire, quindi voi non siete più dentro Lactitalia SRL? E a questo punto Lactitalia SRL... Questo l'abbiamo avviato prima della direttiva del Ministro, che è ancora più cogente, ma perché la nostra sensibilità sull'argomento non è minore a quella delle... Ma quindi è stato, col senno di poi, è stato un errore partecipare? Ma non l'abbiamo fatto, perché diciamo dal punto di vista di quello che è in corso, insomma, c'è un procedimento, tutti quanti, sono andati tutti i ministeri, persino anche in commissione, noi abbiamo riferito nelle commissioni parlamentari, Lactitalia non ha commesso delle frazioni di nessuno. No, ma dico come valutazione, cioè, vostra, non che ci fosse un reato. Sulla valutazione, diciamo, se lei tornasse indietro, forse per evitare anche la polemica, la partecipazione, uno potrebbe mettere qualcos'altro, no? Noi abbiamo sostenuto un'azienda che si rafforzava sui mercati e quindi in questo modo poteva anche assicurare una maggiore continuità dell'attività in Italia, cosa che è avvenuta. Poi, dato che siamo degli attori istituzionali, sì, una società per azioni, sì, messa a maggioranza pubblica, ma la nostra mission è quella di difendere il Made in Italy. Se un'associazione come Coldiretti secondo me, una battaglia giusta nel principio sulla tutela del Made in Italy, noi, ripeto, per al di là del rapporto con... Ma insomma, adesso, ma tanto abbiamo capito che voi siete usciti, però insomma, me lo può anche dire, forse col senno di poi non era il caso. Ma non lo so, perché sono angolature diverse, altre associazioni... No, nel senso che se avessero prodotto in Romania con latte rumeno formaggi, diciamo, che non vanno in concorrenza, che non sembrano italiani, a quel punto l'operazione ci stava tutta. Cioè, forse questa è stata la parte più sgradevole, perché tu puoi produrre in Romania... un formaggio che chiami, chiamalo come vuoi. Guardi, i presupposti erano assolutamente questi, tant'è che il formaggio prodotto lì con latte rumeno non solo portava tutte le diciture in regola secondo le normative europee, quello che abbiamo verificato anche per la produzione dei prodotti DOP, Ma in qualche misura andava su un altro tipo di mercato, mercato estero, mercato della... Ma quindi voi non sapevate industriale. Che sarebbe stato così Italian Sounding? Sa, è tutto anche un'interpretazione, perché è un prodotto che non si confonde col pecorino romano. No, ma magari in Italia no, però se lei lo vende in Gran Bretagna, se lo vende in Russia, sa, è più facile, no? Ecco, una cosa importante, è difficile capire gli effetti sui mercati terzi. Sicuramente facendo un ragionamento che mi ha fatto un'altra associazione non meno blasonata di Coldiretti, se un'azienda come Lactitalia, promossa dai fratelli Tinna, non avesse prodotto lei quei prodotti, tra l'altro in misura molto limitata, l'avrebbe fatto qualche altro produttore. Sì, però diciamo, è anche, lei comunque ce l'ha detto, dottor D'Aiuto, è anche sbagliato che lo Stato aiuti un'azienda che va all'estero a produrre con latte dipendenti rumeni un formaggio che poi sembra italiano e fa concorrenza ai nostri formaggi. Dopodiché, se siete usciti dalla partecipazione, non vi immaginavate un Italian sounding così forte, insomma, ho capito benissimo la missione parziale, così di... non l'avrebbe rifatto. Grazie Massimo D'Aiuto, da Sebastiano Barigioni veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione Focus Economia, torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.